Dai giornali si apprende che c'è una furiosa lotta intestina all'interno del PD. Come XM24, questi interventi a mezzo stampa ci interessano poco. Diciamo che nell'ultimo periodo siamo stati invitati in quartiere a partecipare ad un tavolo partecipato per il quartiere e per la Bolognina, tavolo partecipato al quale siamo andati per cercare di togliere dalla stampa la narrazione per cui XM24 non si presenta agli incontri, ma a quel tavolo partecipato XM24 è stata in silenzio e non ha partecipato alla discussione. Eravamo la parte principale all'interno, come numero eravamo molto ampio ed eravamo le persone a cui tutti guardavano ogni volta che si andava a discutere di qualsiasi argomento, però non abbiamo mai preso parola, cosa che invece a mezzo stampa i vari Lepore, Ara hanno utilizzato per dire che è incominciata una qualsiasi cosa di collaborazione. Noi in realtà attendiamo ancora che nasca un tavolo nel quale poter discutere politicamente del caso XM24. Crediamo che non è possibile partecipare ad un tavolo partecipato con la minaccia dello sgombero sotto il collo. Non è possibile avere un ricatto di questo tipo e cercare di chiedere ad uno spazio che non lo si vuole più all'interno del quartiere di partecipare a organizzare, dare e fare iniziative per conto del comune. In questo periodo stiamo comunque andando avanti nella battaglia di XM24 e ad esempio in questa settimana ci sono una serie di iniziative molto interessanti, tra le quali la presentazione della Santa Crociata del Porco di Wolf Bukowski, che è il nuovo libro uscito edizione Allegri nel 2017, e soprattutto il 30 di giugno, che sarebbe la data ultima per lo sgombero di XM24, cioè la lettera ci intimava di andarcene in quella data. Dalle 18 ci sarà una kermesse di artisti nel giardino retrostante di XM24, intitolato tra l'altro alle vittime del 2 agosto della stazione, della strage fascista della stazione. La kermesse ci sarà Wuming, Alessio Lega, Maria Redigheri, Angela Baraldi, Signor K, Inoki. Sarà un concerto gratuito che terminerà a mezzanotte con un brindisi per la nuova occupazione, mentre il giorno dopo il Cotechino d'Oro, che è una festa che c'è a Bologna di karaoke, una festa che avviene dall'89, dove le persone partecipano facendo questo karaoke e mettendo in scena con gruppi, concerti e palco un vero spettacolo, diciamo alla Sanremo, la propria performance, un'esperienza che nasce nell'89 con l'Isola nel Cantiere, è un'esperienza che avviene ogni 3 anni, mi pare che 3 anni fa era stato alle Caserme Rosse, mentre quest'anno per solidarietà avviene anche questa nel giardino retrostante di XM24. Quello che viene raccontato sulla stampa, che ci sarebbe un Partito Democratico che evoca lo sgombero e una giunta Merola invece che ha instaurato un dialogo, come dire, non ne avete percezione? No, il dialogo non ne abbiamo assolutamente percezione, anzi in alcuni articoli che sono usciti è scritto che il 5 luglio c'è una nuova sessione del tavolo partecipato, cosa che apprendiamo attraverso i giornali perché non ci era stato raccontato, cioè non eravamo stati avvisati. Il tavolo partecipato precedente siamo stati avvisati all'ultimo secondo. In questi tavoli partecipati noi andremo, ma saremo in silenzio, perché non è possibile parlare con uno sgombero sopra e non è quello il momento in cui parlare di XM24, o meglio, si può parlare un po' di XM24, ma quello è un tavolo partecipato del quartiere e quindi la problematica è qualcosa di più ampio e non si può restringere XM24 all'interno di quella situazione là. Altre chiamate da parte dell'amministrazione comunale non sono avvenute in questo momento e quindi è tutto fermo e congelato a gennaio, quando ci è arrivata la lettera. XM24 insomma non vuole partecipare a questa bagarre tutta interna al PD.